Filosofia. Storia della filosofia. Filosofia della storia. Storia della storia della filosofia. Filosofia della storia della filosofia dell'arte. Storia della filosofia della storia dell'arte della filosofia. Proletarizzazione della lotta. Nell'ottizzazione del proletariato. Io mi chiedo adesso perché. Perché è andato tutto a finire così? Con una puttana.